Nel paese sommerso ci sono anche nullatenenti prestanome che fanno finta di vendere prodotti o servizi, ma in realtà vendono fatture false a imprenditori complici, incassando soldi in nero, tanti maledetti e subito. E intanto gli imprenditori guadagnano falsi crediti con il fisco. Il meccanismo è oliato. Un esempio è stata l'architettura messa in piedi da una serie di cosiddette teste di legno, formalmente nullatenenti e non produttori di reddito, ma dall'altissimo tenore di vita. Attraverso società di comodo fatturavano acquisti e trasporti di rottami metallici, in realtà mai avvenuti. Le teste di legno vengono pagate con bonifico bancario da parte delle imprese utilizzatrici delle false fatture e poi prelevano in contanti un importo corrispondente alla somma accreditata. Per completare il giro restituiscono alla società utilizzatrice parte dei soldi in contanti al netto del compenso per l'emissione di fatture false. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.